Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Iniziamo subito con un po' di riscaldamento. Provate anche voi, poi ne parliamo, anzi parlerete voi dai microfoni di Radio 24. Corso di benessere vocale, iscrivetevi subito chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24. E tutti sanno che ho tanto di quel fiato, che neppure una balena può resistere sott'acqua stando senza respirare tutto il tempo che io tengo in questo sì. Vado, vado, vado, vado, vado, vado, vado. Li avete riconosciuti? Stiamo riascoltando gli Alti e Bassi, un gruppo vocale a cappella pluripremiato e ben noto agli ascoltatori di Essere Benessere, in particolare agli ascoltatori e ai partecipanti di Mangia con me. E qua in studio abbiamo Andrea Thomas Gambetti. Buongiorno Nicoletta. Ciao Andrea, uno degli Alti e Bassi. Eccomi qui, sì. Uno dei cinque. Sì, siamo in cinque, le nostre estensioni vocali vanno, come avete sentito in questo stacchetto dove eravamo io e Filippo, cioè proprio gli estremi del gruppo, vanno dalle note basse alle note alte dei contralti o dei soprani. E voi siete alti, bassi, contralti, tenori, soprani. Chiamateci 800 24 00 24, tirate fuori la vostra voce, sottoponetela all'orecchio dei nostri esperti che mettiamo subito al lavoro riascoltando una voce di Radio 24. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi parliamo di problematiche attinenti al risparmio, sono sempre tante naturalmente, a parte i nostri investimenti che da qualche anno a questa parte si erodono costantemente, il nostro risparmio a cui abbiamo dovuto attingere per sopravvivere alla crisi economica. Oggi parliamo della conflittualità con la banca, con l'intermediario finanziario in tema di risparmio, come possiamo fare. Eccola qua Deborah Rosciani, voi la sentite, io ce l'ho davanti. Ciao Deborah. Ecco qua in tutta la sua altezza ed estensione vocale. Estensione vocale. E Andrea, se riesci, se una cantante potrebbe essere, a mio avviso, una contralto, perché ha un timbro bello, un po' profondo, ecco, diciamo. Grazie al cielo risparmiamo agli ascoltatori almeno questo, le mie canzoni, perché non è il caso. Non hai ancora cantato a Essere Benessere? No, non ho ancora cantato, ti prego. No, temevo di dover fare le pernacchie come sì. Il nostro esperto stamattina. Andrea, ci fai un altro riscaldamento intanto, così lo impara anche Deborah e sì. Lo facciamo insieme? Ma per chi usa molto la voce, quindi come speaker, come Nicoletta, Deborah o anche professori, manager prima di una conferenza, ci sono vari esercizi di riscaldamento. Uno molto simpatico, noi l'abbiamo chiamato lo scacciagatto, che consiste nel fare questa cosa. Psst. In realtà serve a scaldare il diaframma, no? Che è il muscolo preposto proprio alla respirazione. Altri esercizi possono essere, per esempio, di tenere una S a lungo sul fiato prima di iniziare magari una trasmissione. Potrete scaldare la voce in questa maniera. Cercando, come una gomma che si fora poco alla volta, di essere il più possibile costanti nel flusso, cioè non bisogna fare cose di questo tipo. Oggi farò una trasmissione strepitosa. Bene, l'importante è sentire bene. L'appoggio sul diaframma, cioè sentire che dalla parte dei muscoli addominali il fiato viene sostenuto e il fiato deve arrivare dal basso. Io vado in eccesso di salivazione invece a volte, e me lo contestano anche degli ascoltatori. Una volta una persona mi ha scritto: io lo so perché lei ha questa difficoltà, in realtà mi dà fastidio anche l'aria condizionata, cioè perché secondo me lei ha la dentiera. Oddio, sì, che quindi, carino. Sì, veramente carino. Gentile, è stato veramente gentile questo ascoltatore, preoccupato per la mia protesi che ancora non ho però. E quindi allora Deborah può fare questo esercizio dello scacciagatto, oppure sì, valgono per tutti, diciamo, del rumorino, ecco, sì. Le persone che usano spesso la voce a lungo, penso agli insegnanti che si sgolano con i nostri figli, esatto. Si sgolano perché usano i muscoli del collo, non bisogna far intervenire la gola, la respirazione deve arrivare dal basso, non bisogna alzare le spalle. Se noi respiriamo alzando le spalle stiamo già riempiendo delle cavità che non sono preposte. Ecco perché vedi perché sono sempre con le spalle un po' in avanti, perché controllo la respirazione. Perfetto. Quindi è un atteggiamento assolutamente professionale il mio. Allora, Deborah è sistemata, è un contralto. Casomai volesse cantare, dedicarsi al canto, iniziare una nuova carriera, e comunque con lo scacciagatto e il motorino. Sono oggi a mezzogiorno, fantastico. Oggi vi faccio una trasmissione sul risparmio postale che sarà indimenticabile. Ecco, chiediamo all'ascoltatore della dentiera di scriverti, però. Per scusarsi o perché no, cosa? Per vedere se nota un miglioramento. Ah, certamente, d'accordo. Grazie Deborah Rosciani. Grazie a voi. Grazie. 800 24 00 24, fateci sentire la vostra voce, il nostro numero verde a disposizione, e avrete poi la possibilità di riascoltarvi in podcast e capire che cosa vi piace e che cosa non vi piace della vostra voce. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Franco Fussi, foniatro torino laringoiatra, responsabile del centro foniatrico USL di Ravenna. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Perché, professor Fussi, quando ci riascoltiamo la nostra voce non ci piace mai? Non ci piace mai perché abbiamo una percezione diversa, in quanto quando noi parliamo ascoltiamo la nostra voce attraverso due vie, la via aerea e la via ossea, quindi abbiamo un tipo di percezione, mentre invece quando la ascoltiamo registrata la riascoltiamo soltanto per via aerea, e quindi abbiamo una percezione diversa del nostro suono, cosa che appunto non avviene quando ascoltiamo gli altri, perché li ascoltiamo solo per via aerea. Senta, ma noi come possiamo ascoltarla e imparare ad ascoltare la nostra voce per capire un po' se ci piace, ma soprattutto quali aspetti magari modificare o correggere? Ma riconoscere sicuramente prima di tutto i suoi parametri, quindi se è una voce pulita, se è una voce che ha una assenza di segnale di soffio di aria, se è una voce abbastanza sonora, quindi ricca di armonici, se è una voce facilmente proiettabile, quindi che non ci stanca a produrre, nel senso di utilizzare la voce appunto professionalmente nel parlato come nel canto, senza accusare dopo poco tempo un'alterazione della nostra voce, e anche sintomi che possono essere sintomi di fatica fonatoria come la gola secca o il bisogno di schiarirsi spesso la voce. La voce che si rompe, la voce che si vela, che diventa ipofonica, meno udibile. E l'irritazione, la sensazione di avere appunto bruciore nelle fauci. Quindi, professore, se noi avvertiamo tutti questi disturbi o alcuni di questi disturbi, è molto probabile che noi stiamo facendo un cattivo uso della nostra voce? Esatto. La mettiamo a un alto dispendio di utilizzo e utilizziamo poco un'economia di gestione di quelle che sono le basi, diciamo, di una fonazione corretta, che sono appunto una corretta respirazione, un corretto uso dei registri, ma soprattutto un corretto uso delle nostre cavità di risonanza. Noi parliamo sempre di voce, no? Abbiamo una voce, ma noi in realtà abbiamo tante voci. Non solo la voce si modifica nel corso degli anni, ma la voce si modifica anche in base alle nostre emozioni, i nostri stati d'animo. Le voci che ci portiamo dentro sono tante. Mamma, perché le stelle ci guardano dal cielo? Tesoro mio, vogliono farci brillare come loro. La voce dell'amore, amore mio. Averti incontrato ha cambiato la mia vita, ma anche qualcos'altro. La voce della rabbia. Ma perché ti ho incontrato? La nostra voce ci accompagna sempre. Con lei piangiamo e poi ridiamo. Ci stupiamo con lei. Diventiamo vecchi. Non ci abbandona mai. A meno che non ci prendiamo cura di lei e ci prendiamo un bel raffreddore. La nostra brava Alessandra De Luca, voce di Radio 24, voce dalle mille voci. Professor Fussi, si cambia? Sono qua. Si cambia continuamente voce in base alle nostre emozioni. Alessandra De Luca ci ha regalato questo pezzetto proprio per darci modo di vedere come anche possiamo utilizzare la nostra voce, renderla anche meno monotona. Professor Fussi. Anche in base al contesto comunicativo, in base alle esigenze che abbiamo di comunicare, possiamo modificare il nostro timbro, la nostra prosodia, la nostra capacità di proiettare o meno la voce, di renderla più suadente o più aggressiva. Dipende anche dalla prossemica, cioè dalla distanza che abbiamo con l'interlocutore e dalle intenzioni comunicative che mettiamo in gioco. E su questo possiamo giocare con tanti colori di voce e con tante variazioni anche tonali. Alessandra De Luca ha chiuso, oppure prendermi cura della mia voce facendomi venire un bel raffreddore. Inizieranno i primi freddi. Io vedo già molte persone che sono raffreddate, hanno mal di gola. Professor Fussi, si può fare una sorta di prevenzione? Soprattutto rivolta alle persone che hanno spesso problemi di voce, la voce si abbassa, mal di gola. Sicuramente, e comunque condivido con te il raffreddore perché anch'io questa mattina... Anch'io perché ho il naso che cola. Esatto, allora in questo caso la prevenzione è sicuramente predisporre prima dell'inizio della stagione invernale una serie di rinforzanti immunitari per aumentare le difese contro le malattie respiratorie, delle alte vie respiratorie. Poi comunque non eccedere in eccesso di appunto protezione del proprio corpo, perché poi la persona che mette sempre la sciarpa tutto l'anno, poi la prima volta che se la toglie si ammala, quindi condurre comunque una vita possibilmente normale, aumentare le difese e mantenere idratate moltissimo le proprie corde vocali, come è necessario idratare il proprio corpo, quindi bere molta acqua, mantenere anche il soggiorno in ambienti dove ci sia secchezza ambientale, uno stato di idratazione buona del nostro organismo, e questo lo possiamo fare per esempio tenendo un fazzoletto bagnato sotto al naso per un quarto d'ora quando soggiorniamo in ambienti molto secchi. Ecco, ricordiamoci il fazzolettino bagnato, 800 24 00 24. Abbiamo Gianfranco che ci chiama da Milano. Gianfranco, sì. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Mi dica, non so, cosa devo dire? Lei vuole capire se è un contralto, un basso, un alto, vuole esercizi per la sua voce, vuole avere una carta d'identità, un consiglio? Parli, esatto, Gianfranco. Sì, un po' tutto. Lei chieda e noi siamo qua per lei. Va bene, grazie. Ma che voce suadente che ha anche lei. Vede? Molto probabilmente è la mia che la stimola. Allora, pecco un po' di vanità. Vabbè, allora, se la fa star bene, questo è altro. Mi dica. Se ci va per dire. Allora, stavo dicendo, no, io vorrei fare un corso di canto e volevo sapere magari dall'esperto se visto la mia età, che ho 56 anni, se posso andare, posso cominciare. Allora, perché mi piace cantare. Che le piace cantare? Gianfranco, che Andrea, dove lo mettiamo nel coro? Ma potrebbe essere un tenore, è chiaro che così è difficile dirlo semplicemente ascoltando il timbro, ma potrebbe essere una voce di tenore. Io dico che a qualsiasi età si può assolutamente iniziare a cantare. Il suggerimento che do io è magari di provare con i cori. All'interno dei cori c'è la possibilità sicuramente di fare esercizi insieme ad altre persone, quindi è sicuramente un grande vantaggio ed è anche una bellissima esperienza di vita e un'esperienza musicale che si può affrontare a qualunque età. 1, 2. Signore e signori, signore, oi, oi. Scusate, il microfono non funziona. Quando parlate, voi riuscite a farvi ascoltare anche solo per pochi minuti, a catturare l'attenzione? Per alcuni questa abilità è indispensabile, pensate ai professori, a noi conduttori, ai venditori, agli operatori telefonici. Qual è il segreto per riuscirci? Per avere una voce convincente? Bene, i ricercatori hanno trovato la formula. Eccola. Il modo di parlare influenza chi ascolta, rendendolo più o meno propenso a dare ascolto a chi parla. Lo dimostra uno studio presentato al convegno annuale dell'American Association for Public Opinion Research, condotto dai ricercatori dell'Università del Michigan, che hanno analizzato come diverse caratteristiche della parlata degli operatori telefonici, dalla velocità all'altezza, al numero di pause, influenzino la disponibilità di chi sta dall'altra parte del telefono a partecipare a un sondaggio. Lo studio ha previsto l'analisi delle registrazioni di 1380 telefonate effettuate da 100 operatori telefonici, sia uomini che donne. La velocità ideale? 3,5 parole al secondo. Le pause? Brevi ma frequenti. L'altezza della voce? Meglio se non monotona. e gli uomini con timbro acuto sono meno convincenti rispetto alle voci baritonali. Fra le operatrici donne, invece, il timbro non sembra essere un fattore importante nel successo della telefonata. E noi abbiamo una telefonata in linea con noi, Giuseppina, della provincia di Monza Brianza. Buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Io volevo chiedere questo. Allora, premesso che faccio l'informatore medico, quindi a volte mi capita di parlare e di dire le cose in breve tempo perché il medico non ha mai pazienza e tempo. Ho subito un intervento di curettaggio delle corde vocali e ho fatto già della rieducazione fonetica in seguito a nobuli. Allora, il mio punto debole è la gola, nel senso che somatizzo proprio alla gola. Sì. Io mi sento il famoso groppo. Groppo in gola. Volevo sapere se c'erano magari anche delle forme di rilassamento, perché chiaramente poi questo groppo si ripercuote proprio sul timbro della voce. Certo. Professor Fussi, questa è sua. Ah, io sento una voce comunque che ha una qualità armonica abbastanza povera, quindi questo nasce di solito quando c'è un ispessimento ancora sul bordo delle corde, oppure magari un'anomala cicatrizzazione dopo l'intervento, e quindi sento una corda che non vibra completamente, quindi che è povera di armonici, e quindi questo presuppone che nella fonazione prolungata la persona si stanchi, perché fatica a farsi sentire e mette in moto dei compensi ipercinetici che vengono di solito trattati a livello logopedico. In ogni caso, continuare a fare della logopedia e migliorare le capacità di proiettare i suoni nelle cavità di risonanza, anche se il motore può avere qualche difetto, cioè se le corde vocali hanno ancora qualche disturbo, è essenziale sia per non far recidivare i noduli e sia per cercare di massaggiare e rendere più flessuose e mobile possibile la superficie, l'epitelio della corda vocale, quindi ridare alla voce più tonicità. Andrea, abbiamo sentito la ricetta per la voce convincente, ma voi sì. Dovete anche convincere quando cantate. Assolutamente, poi noi presentiamo anche tutti i nostri brani, ci siamo accorti che il pubblico è più attento quando parli con calma, quando le parole sono ben scandite e molto spesso anche quando il volume non è troppo alto. A volte abbassare improvvisamente il volume, quindi per esempio quando cantiamo fare un pianissimo o quando stiamo parlando in pubblico improvvisamente abbassare un pochino la voce e crea un'attenzione a volte maggiore. Noi diciamo questa cosa, che desideriamo sentire quasi il respiro del pubblico dall'altra parte, no? Se siamo in un teatro, sentire proprio il respiro del teatro è come un momento magico. Se riesci a sentirlo vuol dire che sei arrivato e hai colpito nel segno. E allora io non posso sentire il vostro respiro naturalmente, ma voi potete farmi sentire la vostra voce chiamandomi all'800 24 0024 per ricevere anche un'analisi, una sorta di carta d'identità con suggerimenti per mantenere sana la vostra voce. Intanto abbiamo Tiziana dalla provincia di Varese. Buongiorno Tiziana, benvenuta. Buongiorno, finalmente ho il piacere di parlare col professor Fussi, che io ammiro. Bene. Allora, ascolti, sì, io sono una cantante lirica e sono parecchio impegnata in questo periodo. Adesso sì. Dovrò fare Butterfly, io sono mezzo soprano, però io canto da un po' di anni. Mi sono resa conto che qualche volta quando inizio a scaldarmi la voce, tra cambio di registro, di avere una leggerissima afonia. Non lo so. Questa è una domanda un po' tecnica, professor Fussi, perché Tiziana è una cantante lirica, ma il professor Fussi, Tiziana è così felice di sentirla che non ho potuto fare a meno che mettervi in contatto, vede? La voce. Ma Tiziana mi parla del primo passaggio o del secondo? Praticamente sono sulle note medio-basse, ecco. Medio-basse, cioè, quindi primo passaggio. Sì, quando cambio di registro, esatto. Mi bemolle, re mi bemolle. Sì, non sull'acuto, sull'acuto non ho problemi. Allora, intanto voi potete continuare questa conversazione tra esperti. Intanto, in bocca al lupo a Tiziana, sono contenta di averle fatto sentire almeno la voce del professor Fussi, a cui immagino lei potrà scrivere. Tiziana, in bocca al lupo per i suoi impegni. Bravi, bravi, siamo tanto bravi, bravi. Come siamo bravi, siamo bravi. Siamo tanto bravi a fare quasi tutto con la voce, come gli signori, sì. Forse qualche nota non è proprio giusto, giusto, sì. Però io sono certo che così nessuno sa cantare. Siamo come gli uccelli. Senti il trillo, senti il trillo. State un po' a sentire queste note così basse, chi le fa? E poi vado su, vado su, vado su. Come siamo bravi, bravi. Certo, se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, c'è qualcosa. Eccoli, come mi piacciono gli alti e bassi. Professor Fussi, ma quando noi ci accorgiamo che la nostra voce non va più tanto su, anche quando cantiamo o quando parliamo, la troviamo spenta, che cosa possiamo pensare? È vero che potremmo sospettare di avere un nodulo? Patologia che può essere, può andare dall'edema da sforzo, quindi un gonfiore sul bordo delle corde che impedisce la chiusura, l'adduzione delle corde vocali, e quindi quando le corde si allungano e soprattutto salendo quindi di tonalità verso gli acuti abbiamo l'aria o il suono si rompe. Oppure ci possono essere degli spessimenti, se l'atteggiamento vocale scorretto viene prolungato nel tempo, si induriscono, diciamo, questi gonfiori e quindi si formano questi calletti che vengono gergalmente chiamati noduli. Sono degli spessimenti del bordo delle corde vocali legati a sforzi vocali acuti o prolungati nel tempo, quindi a una cattiva tecnica vocale. Mi aiuta in tre passaggi a fare una specie di check-up della voce? Possiamo provare la nostra voce facendo il cosiddetto muto, cioè una sirena in labbra chiuse, partendo dalla nota più grave alla nota più acuta, e quindi sentire se facendo appunto riusciamo ad avere una discreta estensione, e se sentiamo fuga d'aria, cioè fruscio, oltre alla produzione del suono nella nostra voce, o se il suono si rompe salendo in acuto. Questo può essere un test per provare appunto la salute del bordo delle nostre corde vocali. Quante ve ne facciamo fare? Abbiamo iniziato con il riscaldamento, il motorino, lo scaccia gatto, adesso la sirena. Stiamo giocando con la nostra voce, ma vogliamo anche cercare di capire qualche cosa di più della voce degli altri. Dite la verità, ci sono delle voci che ci piacciono e delle persone che proprio ci piacciono per la loro voce, e ci sono delle persone da cui cerchiamo in qualche modo, c'è qualcosa che non ci torna perché la loro voce ci allontana. Insomma, sembra che la voce sia uno strumento di comunicazione non verbale, sembra quasi una contraddizione, ma ho in linea il dottor Aquilar, che sono sicura ci spiegherà tutto. Buongiorno, dottor Aquilar. Buongiorno, e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Con questa voce noi intrecciamo relazioni, ma la nostra voce, sentire la voce di un altro, ci avverte anche se la persona che abbiamo davanti ci piace o non ci piace, una persona di cui possiamo fidarci. Ci dà sicuramente delle informazioni su alcune caratteristiche, perché al di là dei fattori biologici, che sono quelli che danno la base alla nostra voce, ci sono dei fattori sociali in cui la voce ci spiega qualcosa che riguarda la cultura, la regione di provenienza, a volte la professione, persino la posizione e la classe sociale di appartenenza. Poi possiamo avere dei fattori di personalità connessi con l'umore depresso, con l'ansietà, con lo stress, con le caratteristiche personali che abbiamo sempre. E altre volte ci sono i fattori psicologici transitori, quindi collegati con l'emozione che possiamo avere in un determinato momento e non in un altro, con le sensazioni di essere sicuri o insicuri di quello che stiamo dicendo, e anche con manovre più specifiche che facciamo con la voce, come per esempio la seduzione, la menzogna, l'ironia o l'umorismo. Quindi ci dà una carta di identità con molti fattori il nostro uso della voce per comunicare. Dottor Aquilar, a proposito di menzogna, c'è chi sa riconoscere i bugiardi dal tono della voce o dalle pause, insomma ci vuole un po' di orecchio, un po' di attenzione, forse è anche meglio non sapere. Dottor Aquilar, però è vero che se facciamo attenzione la voce smaschera il bugiardo? Possiamo smascherarlo, ma non sempre, perché poi dovremmo conoscere un po' meglio com'è il bugiardo in condizioni normali. Ci sono stati molti studi su questo, e intanto dobbiamo dire che la media degli studi ci dice che le persone comuni riconoscono le emozioni che sono dietro la voce con un'accuratezza del 60%, che è altissima rispetto alle probabilità. È chiaro che l'aumento della frequenza e della durata delle pause piene, cioè quelle in cui c'è l'interiezione di e l'aumento del periodo di latenza nelle risposte, tra il momento in cui la persona bugiarda riceve una domanda e quella in cui risponde, c'è un aumento di questo tempo, e poi c'è una disfluenza verbale, cioè chi mente tende a parlare con maggiore velocità oppure con maggiore lentezza rispetto al suo standard. E quindi per avere una valutazione chiara dovremmo conoscere in qualche modo lo standard del bugiardo, avendogli parlato qualche minuto in condizioni normali. Dottor Aquilar, io adesso farò ascoltare ai miei ascoltatori, mi dispiace la ripetizione, un messaggio che ci ha mandato Matteo Caccia. Lei ha dato delle indicazioni, la voce di Matteo Caccia agli ascoltatori di Radio 24 è molto nota, allora a loro chiedo, ascoltate e poi ditemi se Matteo Caccia ci dice la verità o dice una bugia. E chiamateci all'800 24 00 24 e poi sentiremo Matteo che ci dirà se diceva la verità o diceva una bugia. Dottor Aquilar, grazie per essere stato con noi. La saluto. Grazie a voi e buona giornata. Invito come sempre gli amici di Essere Benessere di andare a leggersi i post del dottor Aquilar sul nostro Daily Lab. Andiamo, Matteo. La prima volta che sono andato su una barca a vela avevo 14 anni e poi ho smesso per circa 10. Ho ripreso a 23, 24 e ci vado più volte possibile. La cosa che non ammetto mai e che forse non ammetto nemmeno a me stesso è che in realtà ogni volta che metto piede su una barca ho sempre un po' di timore e c'è qualcosa nella mia testa che dice: ma chi te l'ha fatto fare? Stai a terra che non c'è vento. Non c'è il mare ed è tutto più tranquillo. Bugia o verità? 800 24 00 24. Luca ci chiama da Macerata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Allora, ho sentito adesso la voce di Matteo Caccia, secondo me è verità, perché anche le pause nel suo modo di parlare secondo me rientrano nel suo standard. E poi nulla, io volevo fare una domanda parlando spesso anche a velocità sostenuta, a volte mi vengono dei mal di gola frequenti e nulla, era questa cosa che volevo domandare. Adesso la sistemiamo subito con un aiuto dei nostri esperti, ma intanto Luca, che cos'è? Un contralto, un basso, un medio basso, un mezzo alto? Ma sentendolo così potrebbe essere un tenore, secondo me, sì. Come Matteo, anche Matteo Caccia. Anche Matteo Caccia. Secondo me sì. Quindi stiamo tirando su un bel coro. Certo, ci manca però qualche basso, eh? Allora, all'800 24 00 24 candidatevi. E il professor Fussi che voce ha? Professor Fussi, ma secondo me lui è un baritono. Vediamo cosa dice. Lei si riconosce un baritono, professore? Solo che ora sono più scuro del solito perché è raffreddato, quindi non è possibile facilitare la classificazione della voce in condizioni di patologia. Possiamo aiutare Luca e le persone che così al 349-238-6666 mi segnalano questa difficoltà, questo pizzicore in gola, il mal di gola, la gola un po' tesa dopo che si parla? Sicuramente, evidentemente usiamo male la voce, ma che cosa possiamo fare? Infatti io sento in Luca proprio questo atteggiamento un po' costrittivo, un po' trattenuto nella sua proporsi a livello fonatorio e quindi questo sicuramente lo stanca più facilmente. Allora in questo caso dovrebbe cercare di fare un lavoro tecnico proprio di rinforzo e di maggiore utilizzo delle sue cavità di risonanza e lavorare meno sulla gola, lavorare meno appunto sulle corde vocali, quindi potrebbe fare benissimo politecnica vocale con l'aiuto di un logopedista. Un esercizio semplice, uno scacciagatto per Luca? Andrea? A labbra unite potrebbe contare fino a 100 muovendo bene la lingua però mantenendo le labbra unite, quindi fare una cosa tipo e cercare di contare, quindi muovere bene la lingua però mantenendo le labbra unite. Questo è un esercizio che fanno anche molti insegnanti, molte persone che utilizzano appunto la voce per ore consecutive e prima di iniziare il lavoro come riscaldamento vocale appunto utilizzano questo tipo di esercizio proprio per migliorare il rendimento delle proprie cavità di risonanza. Dove tenete le spalle? Vedo davanti a me Andrea che tu sei assolutamente perfetto in assetto. Ti ringrazio, è molto importante sicuramente tenere le spalle abbassate. Perché la postura e la voce sono strettamente collegate tra di loro. Ne parleremo tra poco con un esperto, ma intanto voglio dare la parola a Ivan che ci chiama da Ravenna. Intanto voi controllate dove tenete le spalle, se sono su, se sono giù. Ivan, buongiorno. buongiorno, innanzitutto complimenti perché la sua trasmissione è bellissima. Grazie, ma che bella voce che ha Ivan, quello lo facciamo diventare solista. Ivan, grazie, mi dica. Prego. Niente, io ho 46 anni e sono agente di commercio, quindi sì, uso la voce per lavoro, se così si può dire. E ultimamente mi ritrovo ad avere del catarro in gola tutta la giornata, cosa che non mi era mai successa, questo negli ultimi mesi, e ho degli abbassamenti di voce senza avere assolutamente mal di gola che possono durare anche tutta la giornata. Quindi lei capisce che per il mio lavoro è un po' particolare la cosa, mette un po' di disagio. Meno male che abbiamo fatto questa puntata. Allora, professor Fussi, che cosa può fare Ivan? Come mai questo catarro, questo abbassamento di voce? Questi due sintomi, cioè la fatica fonatoria, l'abbassamento di voce e la sensazione di avere sempre del muco da dover schiarire appunto continuamente la gola, possono essere dei sintomi relativi alla presenza di reflusso gastroesofageo, che è uno dei nemici principali della voce professionale, ma anche della voce semplicemente della persona che ci lavora. E quindi controllare se c'è una problematica laringea legata al reflusso. La postura sicuramente è importante, in quanto la laringe è un organo mobile posto nel collo e quindi risente sicuramente di tutte le posizioni viziate o a cui siamo costretti durante l'attività quotidiana, e quindi subire poi delle alterazioni vocali in base ad alterazioni della postura. E infatti in linea con noi, proprio per parlare di postura, abbiamo il piacere di avere il dottor Daniele Raggi, posturologo, docente universitario alla Cattolica di Milano presso la Facoltà di Medicina all'Università di Palermo e direttore di Postural Med a Milano. Buongiorno dottor Raggi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Voce e postura. Noi parliamo anche per come occupiamo lo spazio. È vero. E cosa possiamo fare per, soprattutto, tante volte agire sulle nostre emozioni è difficile. Magari lavorare sulla postura per avere una voce che non tradisca troppo le nostre emozioni. Penso ad esempio quando dobbiamo affrontare un colloquio di lavoro, siamo particolarmente emozionati, la nostra voce magari ci tira dei brutti scherzi. Ci dà due dritte per governare la postura e avere quindi un'influenza diretta sulla voce? Innanzitutto è vero, quasi sempre diciamo che la voce rispecchia quelle che sono le nostre emozioni interiori quando siamo di fronte a delle difficoltà. Sì. Quando viviamo un'emozione di disagio, il nostro diaframma purtroppo ne viene coinvolto. Viene coinvolto perché il respiro si altera, perché la sensazione è quella di vivere un impatto troppo forte. E quindi il diaframma, che gestisce oltre la voce anche la postura, ci mette in una condizione di disagio in questo certo. caso. Certo, cosa si può fare? Beh, allora dobbiamo creare, una cosa semplice potrebbe essere creare un inganno per il nostro sistema emozionale, ovvero è come dovremmo dirci, questa cosa che sto affrontando non è pericolosa, non è così importante, non mi cambierà, non finirà il mondo, e quindi in questo modo attraverso il lasciare il respiro, respirare più a fondo e respingere queste emozioni aggressive, riusciamo pian piano ad abbassare quello che era quell'emozione che ci stava aggredendo. Una posizione delle spalle può in qualche modo modificare anche la nostra voce. Sì, sì. Possiamo dire quindi, se dovete affrontare una situazione che insomma vi disturba un po', siete che vi agita, oltre a cercare di portare un po' la mente e a rassicurarvi, abbassate le spalle, apritele. Sì, allora innanzitutto il diaframma, quando è in una condizione di disagio, ha il potere attraverso dei muscoli e delle catene muscolari di far rientrare il collo nelle spalle. Non soltanto le spalle salgono perché ci difendiamo dal mondo, ma il collo purtroppo rientra per una sorta di difesa istintiva. Ecco, un po' l'effetto tartaruga. Esatto. Non so caso, se si dica così, ma... Sapendo, sì, no, ma la cosa è giusta in effetti. Sapendolo, noi possiamo già innanzitutto fare una controspinta, cioè allungare il collo e tendere verso l'esterno per affrontare quello che è la difficoltà del momento, e poi attraverso quelle respirazioni a mo' di sospiro di sollievo abbandonare le spalle. In realtà le spalle non devono essere tanto trazionate verso il basso, sì, quanto vivere la libertà dell'appoggio che hanno sul tronco e sul collo. Sì. Quindi far uscire il collo e con un sospiro far abbandonare le spalle verso il basso. Ecco, questo è di grande, sicuramente. Questo è di grande aiuto. Dottor Raggi, grazie per essere stato con noi. Noi proveremo, quindi no tartarughe, ma un po' collo un pochino, no? Bello lungo, allungato, sollevato, spalle un po' aperte e voilà. Grazie dottor Raggi per essere stato con noi. Grazie a voi. Ma Matteo Caccia, diceva la verità o diceva una bugia? Mi state scrivendo in tantissime, anche mi state chiamando come Valentina. Chissà se dove, come tiene le spalle e che voce ha. Valentina da Venezia, 800240024. Valentina, buongiorno. Sì, pronto. Ciao Nicoletta, ciao a tutti. Il mio collo adesso è completamente dentro le spalle. Ecco, vedi, no tartaruga. Sì. Assolutamente. Trasformiamoci in cigni. Valentina, diceva la verità o mentiva? Ma secondo me era un po' teso rispetto al solito, quindi direi che mente. Allora, in linea noi naturalmente Matteo l'abbiamo chiamato perché è lui che ci deve dire se mentiva o diceva la verità. Matteo, ciao! Ciao Nicoletta, buongiorno. Che bella, che voce ha Matteo Caccia? Oggi c'è la bassa però, eh? Oggi bassa, ma in che cosa può cantare? Ti sei appena svegliato? No, sostanzialmente siete le prime persone a cui parlo oggi. Ah, ecco, vedi. Allora, Matteo, sì, dicevi la verità o dicevi una bugia? Ma la cosa che volevo chiederti è, in realtà, è che se uno dice una mezza verità, c'è una voce di mezzo oppure c'è solo la voce per chi dice la verità bravo, e per chi dice totalmente una bugia? Io ti adoro. Professor Fussi, questa domanda gliela giro proprio a lei. C'è una voce di mezzo? Sì, una voce che è un po' metà, un po' bugia, un po' verità. Ma è una voce che magari ha delle incertezze e poi ha dei momenti invece di sicurezza e quindi magari velocizza un attimo l'elopio, la velocità dell'elopio e poi dopo di nuovo ha momenti di insicurezza. Quindi alterna probabilmente. Quindi più che una voce di mezzo, una voce alternata. Per te Andrea? Ma io devo ammettere che quando ho sentito Matteo ho pensato che la prima parte del suo discorso fosse vera, la seconda falsa. Ho pensato questo. Io ho pensato il contrario. E voi Matteo, li hai confusi tutti. Beh, io credo che ci sia, che l'equivoco abbia un suo valore in assoluto proprio. Che giocare sulla soglia del forse è vero, forse no, aiuta a immaginare chi se ne importa, no? In fondo, a meno che non sia una questione di vita o di morte, o una questione sentimentale, di rapporti, in generale per quello che riguarda il mio lavoro, no? Sostanzialmente faccio intrattenimento, sia per me sia molto più interessante giocare sulla soglia, forse è vero, forse no. È da quando faccio storytelling alla radio che ci gioco, Nicoletta, sul fatto forse è vero, forse no, alcuni pensano che sia tutto vero, alcuni pensano che sia tutto falso e alcuni dicono boh, chi se ne importa, l'importante è che se sta raccontando qualcosa mi porta da un'altra parte, insomma, e mi fa rimanere lì ad ascoltarla. Poi ora se vuoi la risposta a quello che ho detto e quindi quello che hai sentito è vero oppure no, io te la do. Fai come vuoi Matteo, io sono affascinata da questo tuo intervento che mi porta, devo dire, lontano in altre... Però Matteo, se vogliamo svelarlo? Sì, dai. Sì, se vuoi lo svegliamo. Ma dai, sì. La verità è che quando faccio qualcosa di cui ho un profondo, direi ancestrale timore, in questo caso nei confronti del mare, io mento a me stesso, faccio finta di non aver paura per poterlo fare. È l'unico modo con cui riesco a farlo, altrimenti sarei sempre bloccato. E quindi la risposta sta a metà anche in questo caso. Grazie Matteo Caccia per essere stato con noi. Ciao Matteo. Ciao Nicoletta, grazie, ma noi ci vediamo tra poco. E allora, professor Fussi, grazie per essere stato con noi. Seguiremo le sue indicazioni, i suoi esercizi. Speriamo di vederla presto anche qui. Grazie ad Andrea degli Alti e Bassi. Grazie a te. Seguiteli e seguiteci, noi ci sentiamo domani. Buona giornata.